Ciao, mi chiamo Luca, ho fatto parte di Havana dalla sua fondazione nel giugno 1994 fino al dicembre 1997. Poi ho partecipato più tardi nel 2001 all'organizzazione di una festa del solstizio d'inverno. Havana è stata fondata nel giugno del 1994 in un locale fuori dal forte, in un locale al centro di Roma, vicino alla Camera, un locale che noi chiamavamo L'Aguglia. Io adesso non so neanche esattamente quale fosse il suo nome, ma era un locale di proprietà di un monastero, di preti, ma che attraverso conoscenze alcuni di noi erano riusciti a farsi prestare per fare delle riunioni. Infatti i primi membri di Havana sono stati una costola del Prato Rosso, che era un seminario autogestito interdisciplinare uscito da membri di diverse facoltà universitarie che avevano partecipato alla Pantera del 1990, l'occupazione dell'università, e dal loro incontro con varie altre persone, tra cui alcuni membri del Forte che gravitavano intorno all'area cyberpunk e altre persone più o meno sciolte che circolavano negli ambienti dei centri sociali, soprattutto media attivisti, musicisti. Queste persone si sono incontrate in questo locale della Guglia all'inizio dell'estate del 94. Il Prato Rosso si stava sciogliendo, c'era anche la rivista Derive a Prodi, a cui tutti a cui tutti eravamo interessati. E dallo scioglimento del Prato Rosso e dall'incontro con queste altre persone si decise di dar luogo a un nuovo collettivo, Avvisi ai Naviganti, Havana, che poco più tardi decise di installarsi al Forte e di dedicare la maggior parte delle proprie energie alla costruzione di una BBS, dunque un Bulletin Board System, un computer al quale ci si poteva collegare via telefono da casa, perché nel 94 ancora non esisteva un'offerta commerciale di internet. Esisteva evidentemente internet e esisteva il web sin dal 1989, ma era ancora un'infrastruttura utilizzata da poche persone, dai centri di ricerca universitari e da pochi altri. Non c'era un'offerta commerciale, la gente comune non l'utilizzava. Di conseguenza ci era sembrato interessante di offrire noi un mezzo di comunicazione che permettesse di far circolare i materiali, testi, immagini, non ancora video ovviamente perché erano troppo pesanti, principalmente testi e immagini che circolavano tra i diversi centri sociali e tra le diverse realtà dell'autogestione italiana. Esistevano all'epoca varie decine di centri sociali in Italia, forse anche un centinaio, e alcuni di questi erano collegati attraverso la rete cyberpunk. Rete cyberpunk che era costituita da dei computer che la notte in automatico si facevano delle telefonate e si scambiavano pacchetti di posta e file, quindi la comunicazione avveniva con una differita di 24 ore in sostanza, cioè si potevano scrivere messaggi, lasciare messaggi per altri, oppure anche messaggi all'interno di forum, oppure depositare file di testo lunghi o immagini in aree tematiche consacrate ai file, e il computer di notte telefonava a un altro computer che faceva parte di una catena, e in questo modo, con un paio di telefonate notturne, tutti i computer della rete, che erano non so esattamente quanti, non erano molto numerosi, saranno stati una decina all'inizio credo, la mattina dopo tutti questi computer avevano condiviso tutto il materiale nuovo che durante la giornata era stato depositato nei loro hard disk. Questa BBS, nella sua prima versione, che era una versione in ANSI, fu in ANSI Graphics, cioè non una versione grafica ma una versione testo di cui si potevano utilizzare certi caratteri per costruire delle immagini molto grossolane ma dotate anche di un certo interesse. Questa prima BBS fu presentata al Forte con una iniziativa in dicembre, che fu la nostra prima iniziativa di finanziamento e che raccolse il contributo di tutte le componenti di Havana, quindi dagli esperti informatici ai musicisti, ai grafici. Io personalmente facevo piuttosto parte di quest'ultima categoria quanto al mio contributo pratico. Io facevo soprattutto la parte grafica della prima Havana, sia della BBS sia per quanto riguarda volantini, manifesti eccetera, e poi mi occupavo un po' dell'elaborazione teorica, insomma scrivevo dei testi lunghi per difendere certe posizioni. Havana non era, come dicevo all'inizio, non era costituita solo da informatici, e l'informatica non era l'unica sua passione, per così dire. Il quadro più generale interesse di Havana era la questione del nuovo ruolo che il lavoro cognitivo stava assumendo nella società, nell'economia, attraverso lo sviluppo di tecnologie che ne permettevano il potenziamento e anche lo sfruttamento, in particolare ovviamente le tecnologie informatiche e la telematica, la rete, ma anche video, anche la musica, in particolare la musica elettronica. I musicisti che facevano parte di Havana erano soprattutto musicisti elettronici, e quindi in generale l'interesse era rivolto all'uso delle nuove tecnologie e a una riflessione sulle trasformazioni che l'impiego di queste tecnologie stava introducendo nel mondo del lavoro, nella società e nell'economia. Dopo il primo passo, la prima fondazione di Havana, nel 95 emersero anche queste altre linee di interesse. Diciamo che almeno una parte dei membri di Havana cominciarono a partecipare, a prendere parte ad altre iniziative che nascevano al Forte. Una prima iniziativa fu quella della sala da tè, organizzata da un collettivo femminista proveniente dalla facoltà di sociologia, che si chiamava Orda Nomade, e Havana organizzò diverse iniziative insieme a questo collettivo di Orda Nomade, e diversi membri di Orda Nomade entrarono poi in Havana, insomma si fece un percorso insieme, quindi ci fu una componente femminista che partecipò alla discussione, che influenzò anche il dibattito all'interno di Havana del primo anno o del secondo anno. In seguito una parte dei membri di Havana partecipò anche all'esperienza di Luther Blissett, cioè l'associazione di questo nome multiplo attraverso il quale venivano firmati eventi, opere d'arte, mobilitazioni, proteste. In particolare nella primavera, se non sbaglio, del 95, diversi membri di Havana diedero luogo a una trasmissione a Radio Città Futura chiamata Radio Blissett, cui parteciparono appunto alcuni membri di Havana, alcuni membri di Orda Nomade e forse qualcun altro anche che non faceva parte né dell'uno né dell'altro collettivo, ma che comunque faceva parte dell'ambiente, insomma, di persone che in un modo o nell'altro seguivano l'attività di Havana. Questa trasmissione durò per 5 o 6 settimane e fu una trasmissione a suo modo rivoluzionaria, molto interessante. Non ci si limitava a stare in studio, a mettere della musica, a intervistare personaggi di un certo calibro come Giorgio Agamben, come Tony Negri e altri, ma la parte più interessante della trasmissione consisteva nel fatto di utilizzare i primi telefoni cellulari che cominciavano a vedersi vicino a quel tempo, per tenersi in contatto con delle volanti, cioè delle macchine dentro le quali alcuni partecipanti alla trasmissione giravano per Roma, andavano a visitare le serate, soprattutto che avevano luogo nei centri sociali, i concerti, i rave party, eccetera, e in qualche modo permettevano al pubblico che restava a casa di avere notizie su questi eventi e addirittura il pubblico poteva telefonare in radio per farsi passare a prendere e le volanti potevano passare a prendere degli ascoltatori per trasportarli da una parte o dall'altra della Roma notturna. Questa trasmissione in effetti si faceva il sabato notte, mi sembra dalle 11 alle 2 credo, qualcosa del genere. Fu un'esperienza molto interessante che si concluse in maniera un po' brusca con una serie di arresti, in quanto decidemmo di organizzare una festa sull'autobus notturno senza pagare il biglietto. L'autista chiese l'intervento della polizia e subimmo diversi arresti e anche qualche processo, fortunatamente poi concluso anni dopo con il proscioglimento degli imputati. Tra le altre iniziative di questa trasmissione ci fu una protesta all'anagrafe di Roma contro l'identità, contro la carta d'identità, un'altra protesta all'ufficio di collocamento contro il lavoro salariato, un'altra ancora alla SIAE evidentemente contro il diritto d'autore e una quarta iniziativa a Piazza di Spagna sotto la colonnina della Madonna Immacolata in favore del godimensuale, in pratica contro il fatto che la Madonna avesse dovuto partorire senza gioire. Questa di Radio Blisset fu un'esperienza importante per una buona parte dei membri di Havana e, se non sbaglio, poi fu anche il tramite attraverso cui nuovi membri che non facevano inizialmente parte di Havana entrarono in contatto con il collettivo e presero parte alle riunioni sui live. Nello stesso periodo vorrei segnalare anche un'altra attività che coinvolgeva una parte dei membri di Havana, cioè una ricerca di tipo esoterico che era guidata dai musicisti che facevano parte di Havana. Queste componenti musicali ci iniziarono alla dottrina di Gurdjieff, in particolare al concetto di presenza. Al concetto di esserci, di essere attenti, quindi di essere attenti a quello che accade nel presente, non essere persi, non essere perduti nella propria memoria, nei propri progetti, nella propria mente, ma essere vigili di fronte agli eventi presenti. Questa sorta di seminario ebbe numerose riunioni nel corso del 1995 e influenzò anche lui una parte dei membri di Havana. Quarta, perché abbiamo parlato di Orda Nomade, Radio Blisset, seminario su Gurdjieff, un quarto elemento culturale forte cui Havana prese parte, diciamo che costituiva l'humus, il contesto nel quale il collettivo si muoveva, fu senz'altro, a partire dal 1995, la partecipazione agli Illegal Rave, cioè i party illegali organizzati in aree dismesse in cui si vedeva per liberare uno spazio, per occuparlo durante il corso di una notte, per ballare tutta la notte e quindi fare un'esperienza collettiva di piacere, di gioia, di liberazione e di empatia che senz'altro ha segnato tutti noi in quel periodo, perché era un'esperienza nuova e particolarmente intensa, che creava un sentimento di unione, di fratellanza, non solo al nostro interno, ma anche con tutti gli altri gruppetti e con tutti gli altri laboratori del Forte e degli altri sociali. Verso la fine del 95 si decise che la vecchia BBS aveva un po' fatto il suo tempo, che bisognava passare a qualcosa di nuovo e si fece un upgrade a un'altra BBS che chiamammo Havana Overground, e che era una BBS su piattaforma Mac, software che si chiamava First Class, cioè era un software grafico che offriva delle possibilità di molto superiori a quelle della BBS precedente, ma che non era facilmente interfacciabile con internet e a posteriori penso che quella sia stata per noi una scelta sbagliata. Io ero favorevole a questa scelta, ma penso che sia stata una scelta sbagliata perché investimmo molto tempo nella realizzazione di questa nuova BBS in First Class e quando la BBS fu pronta volta cominciarono ad apparire le prime offerte commerciali di connessione a internet e di conseguenza l'interesse di collegarsi da casa a un computer isolato si scomparve perché la gente ormai disponeva della possibilità di collegarsi, di navigare sul grande mare della rete internet. Quindi qualcuno chiamò la nostra BBS una tinozza virtuale. Mi sembra che quello fu un errore, fu una battuta di arresto nel nostro progresso tecnico. Non so quanto tempo passò, ma passò un bel po' di tempo prima che da questo errore ci riprendessimo per dare luogo a un sito internet. Finché sono stato io nell'ANA, mi sembra che un sito internet, cioè fino alla fine del 97, un sito internet non lo facemmo. Personalmente io appresi a scrivere in HTML solo più tardi, verso il 2000, grazie a dei corsi che furono organizzati in seguito, ma prima del 97 mi pare che non avevamo le competenze per realizzare sito internet, quindi realizzare la nuova infrastruttura che si era resa disponibile. Quindi ci fu una situazione un po' critica dal punto di vista tecnico verso il 95-96. Questa situazione critica però riguardò la BBS, ma direi che non riguardò il gruppo, perché anzi a livello umano e personale il 96 fu un anno estremamente ricco in cui si respirava un'aria molto euforica, molto positiva. Ci furono diverse iniziative al forte, tutti noi eravamo veramente investivamo con grande convinzione nel progetto di un possibile cambiamento della vita anche attraverso le nuove tecnologie. E fu l'anno per esempio del cerchio, no? Fu l'anno in cui alcuni di noi invitarono al forte degli indiani d'America che ci trasmisero delle conoscenze tradizionali sul modo di gestire le assemblee, i discorsi pubblici, e quella fu un'altra esperienza importante di quegli anni per una parte, ancora una volta, dei membri di Havana. Non facevamo tutto tutti insieme, ma non posso che raccontare la mia parte.